Marilu nel pozzo. Marilu nel pozzo. Marilu nel pozzo. Marilu nel pozzo. Pozzo, pozzo. Marilu nel pozzo. Marilu nel pozzo. Marilu nel pozzo. Marilu nel pozzo. Pozzo, pozzo. Marilu. Sei sparita così. Oh, oh, oh, oh. Altro che la scazzina. Oh, oh, oh, oh. Eran tante promesse finte come le tue tette. Eravamo due star, oh, oh, oh, oh. Ma hai preferito andare, oh, oh, oh, oh. Il tuo posto da scemo ora di chi sarà, oh, oh, oh. Marilu è sparita, cerco una cretina. Appelli in TV, dov'è Marilu? Mi vuoi dire dove cazzo te ne sei andata? Marilu è sparita, cerco una cretina. Appelli in TV, dov'è Marilu? Mi vuoi dire dove cazzo te ne sei andata? Marilu nel pozzo, pozzo, pozzo. Marilu nel pozzo, pozzo, pozzo. Marilu nel pozzo, pozzo, pozzo. Marilu nel pozzo, pozzo, pozzo. Marilu. Sono in crisi e lo sai, oh, oh, oh, oh, oh. I vestiti per me, oh, oh, oh, oh, oh. Quelli che rubavi ogni tanto a tua madre, non li rivedrò più. Marilu è sparita, cerco una cretina. Appelli in TV, dov'è Marilu? Mi vuoi dire dove cazzo te ne sei andata? Marilu nel pozzo, pozzo, pozzo. Marilu nel pozzo, pozzo, pozzo. Marilu nel pozzo, pozzo, pozzo. Marilu nel pozzo, pozzo, pozzo. Marilu, Marilu nel pozzo, pozzo. Marilu nel pozzo, pozzo. Marilu, mi sono rotta il cazzo di cercarti. Gravina, fognature, discariche, pozzi. Ti chiedo soltanto di dirmi, ma dove cazzo ti sei buttata? Nel pozzo, pozzo. Marilu è sparita, cerco una cretina. Appelli in TV, dov'è Marilu? Mi vuoi dire dove cazzo te ne sei andata? Marilu è sparita, cerco una cretina. Appelli in TV, dov'è Marilu? Mi vuoi dire dove cazzo te ne sei andata? Marilu nel pozzo, pozzo, pozzo. Marilu nel pozzo, pozzo, pozzo. Marilu nel pozzo, pozzo, pozzo. Marilu nel pozzo, pozzo, pozzo. Pozzo.